Pronto? Allo? Sara? Sì, ci ciao. Sei? Ok, grazie di essere con noi. Si terrà domenica prossimo la seconda passeggiata dentro il quartiere di Ostiense e Piramide. Sì, esatto. La seconda passeggiata collettiva sarà domenica 6 aprile. Partiremo dallo spazio occupato a Via Ostiense 137, l'occupazione delle cagne sciolte, e faremo una passeggiata collettiva appunto per i quartieri di Ostiense e Piramide, insomma, sì, di Ostiense. Abbiamo scelto questa data perché la ricorrenza dell'eccidio delle 10 donne che nel 44 furono uccise dai nazifascisti perché assaltarono un forno, e percorreremo le strade del quartiere diciamo distribuendo la nostra passeggiata per diverse tappe. E il ragionamento delle passeggiate, diciamo, ci è venuto perché, diciamo, come pratica consolidata femminista noi partiamo da noi stesse, e una delle riflessioni è stata proprio che attraversando questa città, le strade, quindi soprattutto di notte, diciamo che in molte parti di esse non ci siamo sentite così libere di attraversarlo. E quindi queste passeggiate hanno l'obiettivo appunto di riappropriarci delle strade attraverso le nostre passeggiate. E come si svolge questa passeggiata? Perché io non sono andata l'altra volta. Si fa musica, c'è megafoni, striscione, volantinaggio. Sì, insomma, cercheremo di essere le più comunicative possibili, ci saranno la murga, ci sarà la musica, ci saranno anche delle stornellatrici che ci accompagneranno per Garbatella, e poi però diciamo appunto, come ho detto prima, insomma la passeggiata è distribuita a tappe con la sua parte conclusiva che sarà Ponte di Ferro. Ma prima, ad esempio, attraverseremo ad esempio la stazione di Piramide, dove essenzialmente si farà un intervento su chi purtroppo è privato della propria libertà, e quindi poi affronteremo anche il percorso dell'obiezione di coscienza, naturalmente la passeggiata, come ho detto prima, ha come discorso di base anche la violenza sulle donne, perché molte volte quando appunto giriamo per strada non ci sentiamo appunto libere, perché molti territori sono impraticabili. Ad esempio, uno dei ragionamenti è stato che la sovraspeculazione che viene imposta sopra questa città ha poi l'effetto di produrre dei non luoghi. I non luoghi, il fatto di non avere delle persone intorno, di non avere una comunità, di fatto producono dei territori che sono assolutamente svuotati, e che quando ci passi non stai proprio tranquilla, ecco. Mm-hmm. E dunque l'idea è anche tipo una sensibilizzazione della gente che vive lì, di non lasciare le persone da sola, perché come lo dice l'appello, aprite le finestre. Sì, noi pensiamo che essenzialmente, proprio per rispetto a quest'ultimo tema, la migliore risposta alla violenza sulle donne non siano le politiche securitarie, non siano appunto le politiche del terrore, ma sia piuttosto un impegno della comunità stessa. e quindi invitiamo proprio le persone durante il nostro passaggio a aprire le finestre, perché molto spesso diciamo un occhio di riguardo, un'attenzione di riguardo può aiutare molte persone che magari in molti momenti sono in difficoltà. Sì, di rompere l'isolamento di una donna che passa per strada e che può essere a chi un uomo può dare fastidio, per esempio. Esatto, poi anche in questa passeggiata distribuiremo dei fischietti che possono essere considerati come una diciamo uno strumento di autodifesa. Certo, e del pepe anche. È un buon paio di scarpe. Sì, e poi faremo anche dei diciamo dei giochi sempre sul tema dell'autodifesa. Senti, sul tema dell'autodifesa, sì, ho sentito. Dunque, senti, ci parla, perché non penso che abbiamo parlato avete aperto gli sportelli antiviolenza, ci puoi rifare anche un appello e un'informazione su questi sportelli che sono stati aperti alle Cagne Sciolte? Sì, allora, l'altro domenica scorsa abbiamo diciamo inaugurato questi due nuovi sportelli che sono attivi dalle Cagne Sciolte. Uno è diciamo dedicato alla salute riproduttiva in tutte diciamo le fasi della vita di una donna, quindi dalla pubertà fino alla menopausa. Uno dei ragionamenti è stato che il processo di medicalizzazione che ha coinvolto e che ha posto al centro il corpo delle donne ha provocato nel tempo quello che si può definire anche una violenza proprio anche ostetrica, ma non solo, che si passa durante anche il parto. Un esempio tra tutti, in Italia c'è il più alto numero di parti cesarei in Europa. Questo vuol dire che non solo c'è un discorso di medicalizzazione, ma c'è un discorso anche del fatto che ai medici conviene fare le operazioni, perché comunque vengono pagati per queste operazioni diciamo più semplici. E l'altro sportello invece è uno sportello antiviolenza. Se volete vi do il numero di telefono. Sì, grazie. 389 980 8055. È aperto venerdì dalle 3 alle 7. Riceviamo diciamo su chiamata e è uno sportello specificamente rivolto alla violenza maschile contro le donne. Bene. E quindi insomma c'è un discorso diciamo complessivo, ecco, sulla violenza sulle donne. Da una parte appunto si affronta il tema della libertà di movimento, della riappropriazione delle strade, delle piazze, della notte, e dall'altra appunto lo sportello antiviolenza, appunto perché poi sappiamo benissimo che le violenze spesso sono anche dentro le case, anche se appunto questa cosa che dicevi tu prima di non girarsi dall'altra parte, di aprire le finestre, funziona anche per la violenza dentro le case. Esatto, cioè nel senso il punto di partenza è di una visione non patologica della violenza maschile sulle donne, cioè la violenza è il prodotto di una società patriarcale che si basa proprio sul dominio tra i sessi e di cui la violenza è un suo prodotto. E quindi è anche un'interpretazione della violenza, come dicevi te, a tutto tondo, che non è solo quella diciamo tra le coppie, ma è una violenza che è diciamo il respiro più ampio, anche di tipo istituzionale, di tipo diciamo anche medico se vogliamo, sociale e così via. Quindi insomma ripetiamolo l'appuntamento a questo punto, e poi insomma ci vediamo a passeggiare insieme e poi magari ne riparleremo dopo la passeggiata. L'appuntamento appunto è per domenica, questa domenica 6 alle 17 a partire dallo spazio Le Cagne. Esatto, via Ostiense 137. Bene, grazie. Ci aspettiamo. Grazie e grazie a voi. A domenica. Un bacio, ciao. Ciao.